America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. So we'll continue to look for the value of China's currency to be increasingly driven by the market. The King's Speech ha intitolato ieri mattina il New York Post, mostrando la foto di Barack Obama che parlava alla nazione martedì notte, un chiaro riferimento al film omonimo che proprio nel giorno del discorso sullo Stato dell'Unione aveva ricevuto ben 12 nomination per gli Oscar, sbaragliando la concorrenza. Oggi in un'intervista esclusiva ai microfoni di America 24 abbiamo sia il regista di The King's Speech, Tom Hooper, che l'attore protagonista Colin Firth, nominato come miglior attore. Ci spiegano perché un film storico può vincere contro un film di attualità. Vediamo intanto alcuni momenti salienti di questo film. My husband is he's required to speak publicly. Mio marito deve parlare in pubblico, dice Elizabeth, la moglie di Giorgio VI, quando va a visitare un dottore. Questa frase racchiude il problema centrale di questo re e racchiude un po' il senso del film. La storia, cioè, di un re che deve parlare al pubblico, fare dei discorsi importanti, ma ha un problema e balbuziente. Ebbene, la signora Elizabeth, la regina, va a visitare un dottore, Jeffrey Rush, che interpreta la parte di questo dottore che si chiamava Lionel Ruff, che ha dei metodi un po' particolari, e gli chiede se può occuparsi del marito e correggergli questa balbuzia. Sentiamo quanto particolari fossero alcuni di questi metodi di Lionel Ruff. Timing isn't my strong suit. Your methods are unorthodox and controversial. No. Up comes your royal hands. It's actually quite good fun. Yes. Art thou afeard? Si sviluppa anche un rapporto molto particolare, molto teso, perché re Giorgio VI diventerà poi re Giorgio VI, ma quando comincia le cure è ancora il principe di Galles. Ovviamente resiste le richieste, le indicazioni di questo dottore, come vi dicevo, poco ortodosso. C'è uno straordinario quadro storico, quadro familiare, il grande appoggio che la famiglia dà a questo re che cerca di perdere la balbuzia, e nel momento in cui deve fare un discorso storico importante per la nazione, per tenere il popolo britannico unito nel momento in cui dichiara guerra alla Germania. E dunque la missione di questo dottore non è soltanto quella di curare una persona che ha un problema con la balbuzia, ma diventa una missione molto più alta, molto più importante, quella di aiutare addirittura un paese. I can't cure your husband, but I need total trust. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Why are you here then? Because I bloody well stammer! Sono qui perché ho la balbuzie, urla, come avete sentito, Colin Firth, re Giorgio VI. La sua interpretazione, quella di Colin Firth, è stata magistrale. Vi ho detto, ha vinto il Golden Globe come miglior attore, e dunque abbiamo una chiacchierata con lui che ho fatto qualche giorno fa qui a New York. I am not in the business of messages. I'm not a teacher. I'm not a philosopher. I don't like messages in my business. I think they're patronizing. I would much rather be as truthful as I can be, and hopefully that resonates with people and they can create whatever their own message. You know, but I think this is about, there is something in this film that I think resonates with a lot of people about fear. Non sono nel business dei messaggi, mi risponde Colin quando gli chiedo se in questo film c'è un messaggio molto positivo di possibile guarigione per chi ha la balbuzie. Preferisco invece essere il più veritiero possibile e vorrei che la gente si crei il suo messaggio attraverso il film. E sottolinea che c'è molto da fare. La cosa importante che dovrebbe emergere a questo film, dice, è confrontarsi con la paura, non essere debilitati dalla paura. Possiamo dire qualcosa in italiano per la nostra audience? Va bene, proviamo. Allora, cosa vuoi dire in italiano agli italiani di questo film? No, è un film che sembra è un film per tutti, non è, sembra un, forse un film storico, un film costume, un film di un re sconosciuto, che sembra per molte persone pensano in avanti che non è una cosa per loro. Invece fino adesso quasi tutti che hanno visto il film sono rimasto molto sorpreso, perché è una storia molto più personale. Dov'è che vai in vacanza? Tu sei sposato con un'italiana? Sì, sono sposato con un'italiana, andiamo in Toscana. Dove in Toscana? Non voglio essere preciso. Ah, ok. Ecco, facciamo due chiacchiere anche con Tom Hooper, il regista del film. Ho chiesto a Tom Hooper qual è la sua spiegazione, la sua valutazione, la sua giustificazione, diciamo, perché un film come il suo storico possa concorrere per un premio Oscar. I think the key thing is to capture the true language of the present tense. Is to get people into the moment where the future is not preordained and you're not on a train track towards any destiny. You have to remember that, you know, no one knew whether the king would make a successful speech. That could have been a dismal failure, the first speech he made at the start of war. And you had to recapture the instability of the present moment, and of course, which is inherently very dramatic. Dal suo punto di vista, non si tratta di fare un film storico, ma si tratta, dice, di catturare il linguaggio del presente. E nessuno sapeva se il re avrebbe davvero potuto fare o meno questo discorso. E dunque il suo film riguarda un momento particolare in cui dice il futuro non è preorganizzato e non è programmabile. Dunque la forza del film, per questo secondo lui può concorrere all'Oscar, è che rappresenta, ci porta un messaggio che diventa una costante, perché quel particolare momento è un momento che riguarda tutti noi nella vita di ogni giorno, e dunque si tratta di confrontarsi con una sfida e cercare di superarla. Gli chiedo a questo proposito se questo film può rappresentare anche un messaggio di speranza per chi cerca di uscire dal problema della balbuzie. It does, and I've had a number of moving experiences, particularly recently. I was at a screening at the National Film Theatre in London, and I was approached afterwards by a woman who'd had a brain aneurysm in middle age and had become a late onset stammerer and was having to deal with stammering, you know, in her middle age for the first time, and she'd come to the film for a second time and was hugely moved by it and had cried throughout, and she said, "You cannot imagine how much it's helped me to see this film," and those moments make the whole. La risposta di Tom Hooper è positiva. Sì, la speranza ci deve essere. Racconta di un'esperienza diretta che ha avuto, dicevo, di aver avuto un'esperienza molto commovente con una donna di mezza età che era stata colpita da un aneurisma al cervello e come conseguenza aveva avuto poi la balbuzie, e questa donna lo ha avvicinato, commossa, gli ha detto di essere andata a vedere questo film due volte e di aver avuto, raccolto appunto la speranza, la forza per poter cercare di combattere le conseguenze dell'aneurisma di cui aveva sofferto. Questi momenti danno tutte le soddisfazioni possibili in risposta agli sforzi che sono stati compiuti per fare un film di questo genere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno di Beethoven, concerto per pianoforte numero 5, colonna sonora di The King's Speech. A New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.